siamo al solido, e si deforme il mio trono, il mio letto, quando fingeva mai aver. Che dici? No, perché fa quel folla mia vendetta? Già deposta ogni sdegno, signor, se fa mia legge il piacer vostro. Al soglio dunque io vengo. Al soglio sì, ma per svelarvi un mostro. Dov'è mia figlia? Più tua figlia non è, mia sposa è Asterio. Tua sposa? Non è vero! Degli ottomani il sangue non può accoppiarsi al sangue d'un pastore. Favella Asteria, e dato i sensi almeno, abbia questo insolente donde avvilirsi. Padre sì, vado al trono, il soffro in pace, il resto lo nel cor e la brutace. Che il miri e il soffra in pace. Perfida indegna figlia! Ah, si goccia, stanco sono di quei furie. E se il volto d'Asteria non arrestasse il colpo, ne porterebbe il capotullo pena. Per verse stelle! Con intrepido ciglio, rinivo, Bajazet, qual sia tua figlia, io non t'ancor del tuo mal la orgoglio.